sono ancora qui a parlare di noi in questa stanza vuota e scura, due cuori infranti, anime perse in questa nullità di colori. E siamo ancora qui, tu che gridi le tue certezze, io che grido le mie, ma nessuno ascolta, tutto passa e va, ormai è la normalità, è fragilità, è vulnerabilità, due anime stremate in cerca di qualcosa che le faccia uscire da questo stato di nulla totale. Ma quanta bellezza è passata, ma quanta dolcezza è svanita, in un attimo ci troviamo col vuoto dentro. Ma quanti sorrisi svaniti, ma dove li abbiamo lasciati, in un attimo ci siamo ritrovati tristi e soli. Guardo nei tuoi occhi che sapevano di gioie e di colori chiari, non riesco a rivedere quelle cose, non ci riesco più. Ma quanta bellezza è passata, ma quanta dolcezza è svanita, in un attimo ci troviamo col vuoto dentro. Ma quanti sorrisi svaniti, ma dove li abbiamo lasciati, in un attimo ci siamo ritrovati tristi e soli. E tocco le tue mani, ma fai un passo indietro, cerco un nuovo contatto, da dove poter ricominciare, da dove poter ricominciare. Ma quanta bellezza è passata, ma quanta dolcezza è svanita, in un attimo ci troviamo con il vuoto dentro. Ma quanti sorrisi svaniti, ma dove li abbiamo lasciati, in un attimo ci siamo ritrovati tristi e soli. Sono ancora qui a parlare di noi in questa stanza vuota e scura, due cuori infranti, anime perse in questa nullità di colori. E siamo ancora qui, tu che gridi le tue certezze, io che grido le mie, ma nessuno ascolta, tutto passa e va, ormai è la normalità, è fragilità, è vulnerabilità, due anime stremate in cerca di qualcosa che le faccia uscire da questo stato di nulla totale. Tocco le tue mani, ma fai un passo indietro, cerco un nuovo contatto, da dove poter ricominciare, da dove poter ricominciare.